Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Un cordiale buongiorno a tutti quanti gli amici e le amiche radioascoltatori e radioascoltatrici, ben ritrovato con l'ennesimo appuntamento con Carta e Penna. Vi ricordo come sempre va in onda su CRM Radio, la radio che si sente e si vede, potete seguirci su streaming in diretta oppure se desiderate vedere anche puntate precedenti andate su Repliche Podcast e lì insomma troverete di tutto. Seguiteci sempre perché abbiamo un bel palinsesto all'insegna dell'informazione, dello sport, della musica leggera, ma abbiamo di tutto e di più, quindi una radio a 360 gradi presente tutti i giorni nelle vostre case ma anche nelle vostre auto. E il telefono 0921 92 32 92 per chi volesse fare delle richieste discografiche, oppure seguiteci su Facebook oppure www.crmepiradio.it. Insomma siamo su streaming quindi potete anche vederci se volete, anzi vi saluto così con la mano, ciao a tutti. Allora, oggi due ospiti importanti, chiaramente non presenti in studio, ma per telefono, è il nuovo presidente dell'ente sviluppo agricolo, il dottor Francesco Calanna, al quale chiederemo la situazione in atto, visto tutto quello che sta succedendo a livello nazionale, nella nostra Sicilia l'agricoltura che punto è, cosa farà come primo atto come neo presidente dell'ESA, insomma cercheremo di capire il personaggio, cercheremo di capire in che senso si intende muoversi negli anni che gli competono per quanto attiene il suo mandato. Poi in questi giorni abbiamo letto su tutti i quotidiani una famosa tabella A che riguarda naturalmente i finanziamenti regionali a pioggia che sono stati elargiti a molte onlus, e qui c'è stata una sollevazione di scudi e come capofila di questa sollevazione c'era il dottor Bartolo San Martino, che ogni tanto è stato nostro ospite, presidente peraltro dell'Accademia della Politica di Palermo, è una benemerita accademia, prepara i futuri politici ma non solo, ci sono simposi su libri, poesie e quadri, insomma è una organizzazione che si occupa di tutto e di più a 360 gradi con la massima professionalità. Al dottor Bartolo San Martino, che è stato anche un politico all'ARS, chiederemo lumi su cos'è questa benedetta tabella H e la sollevazione di tutto questo puseverio è nato dal fatto che il presidente di Fiumara d'Arte di Marina di Tusa aveva rinunciato a ben 80.000 euro di finanziamento, da lì insomma ci sono stati un po' di marasmi tra il presidente della regione e i vari enti, e qui insomma Bartolo San Martino è intervenuto facendo leva, dicendo che lui da diversi anni fa formazione però non ha mai chiesto un soldo alla regione siciliana. Per quanto attiene invece le notizie di sport, in prima pagina stamattina del giornale di Sicilia, naturalmente a lettere cubitali c'è Barreto, giocatore del Palermo di spalle con le mani nei capelli, perché c'è di mettersi le mani nei capelli. Il Palermo non ce l'ha fatta nonostante il grande sforzo agonistico a battere l'Udinese in casa e quindi ahimè retrocede in un'altra volta nella categoria cadetta, quindi in Serie B. Ci dispiace tantissimo, è stata una lunga galoppata in Serie A da parte del Palermo, è arrivata anche in Europa League, però errori, non stiamo qui a giudicare chi, nessuno è tecnico, a meno chi vi parla non è un tecnico di calcio, quindi non voglio giudicare né il presidente Zamparini né tantomeno il DS o i giocatori, ognuno ha cercato di fare la sua parte, purtroppo è andata così, prendiamola così come viene, come è successo al Messina, è successo adesso anche al Palermo. Abbiamo una squadra che Messina sta riemergendo ed è nelle è stato in Serie A per 2-3 anni, poi è sceso in Serie B, adesso era addirittura precipitata in terza categoria, adesso sta risalendo la china, quindi speriamo che il Palermo possa uscire al più presto dal baratro della Serie B, perché una città come Palermo, la quinta città d'Italia, non si può permettere e consentire di rimanere nella serie cadetta, con tutto il rispetto per le squadre che orbitano in quella categoria. Si parla anche della beatificazione di Don Puglisi, la celebrazione avverrà al Politarico, questo sacerdote che si è immolato in amore per l'amore di Dio e si era scagliato contro la mafia di Palermo, è stato assassinato barbaramente, ma si scopre dopo diversi anni che il suo corpo è totalmente intatto. Adesso io mi fermo perché devo dare la linea alla regia, al rientro sentiremo il primo ospite che è il dottor Francesco Calanna, neopresidente dell'ente di sviluppo agricolo siciliano. Linea alla regia. Cefalù Eventi Equestri organizza Cefalù Cavalli, il primo concorso ippico salto ostacoli Famiglia Provenza, dal 24 al 26 maggio sul lungomare Giardina. All'interno della manifestazione sarà allestita una fiera e ancora, per tutti i piccoli, una zona games con la partecipazione delle maschere Disney di Topolino e Minnie. Per tutti, degustazione gratuita dei prodotti tipici offerte dalle aziende presenti. Inoltre la sera, eventi live con musica e balli country e ancora jazz e pop e tanta animazione, tutto ciò a partire dalle ore 20. Per la collaborazione a Cefalù Cavalli si ringraziano Ultra Gel, semilavorati per gelaterie e pasticcerie, Bar Antica Portaterra, l'associazione sportiva Hippo Club Cefalù, lo chef Natale Giunta e l'Esercito Italiano. Vi aspettiamo dal 24 al 26 maggio sul lungomare Giardina. Cefalù Eventi presenta Cefalù Cavalli, il primo concorso ippico salto ostacoli Famiglia Provenza. Non mancate. E allora rientriamo in diretta. Stavamo parlando degli argomenti sia dello sviluppo agricolo, c'è l'annoso problema, lo diciamo sempre, è bene ricordarlo fin quando quantomeno i sindaci del comprensorio e che fanno parte poi della commissione dell'ente parco non si decidano a fare abbattere selettivamente questi suidi allo stato brado, che stanno depauperando insomma la fauna e la flora di questo nostro territorio delle Madonie. Volevo dare un cenno per quanto attiene Papa Francesco, dice una cosa che secondo me insomma calza a pennello, a parte la sua grande umanità e la grande fede verso Gesù Cristo. Dice Francesco: la povertà teorica non ci interessa, dobbiamo toccare la carne povera di Cristo, non si usa il popolo per ambizioni personali. Poi si rivolge naturalmente alle suore, dice: dovete essere mamme, ecco, direttamente essere madri e non zitelle. Cioè Padre Francesco insomma sta mettendo in subbuglio tutta la nomenclatura della Chiesa Apostolica Romana, ma è giusto che sia così, perché insomma il cattolicesimo e il cristianesimo nasce sotto l'insegna di Cristo e lì bisogna andare. Prima di sentire la telefonata bisogna parlare di una importante iniziativa, Impronte Calzature, su Facebook. È importante questo perché potete anche interagire. Uomo calzature di uomo carrera, Renato Balestra, Pier Carden, donna con Francesco Milano, Carla Sansonet. I bambino poi insomma su Walt Disney e tanto altro. Punti vendita a Campo Frigio di Roccella in via Cesare Civello 53, a Castelbuono in via Corso Umberto 1. È importantissimo dire anche, c'è tutta la linea mare, ancora pantofole De Fonseca, linea comoda, la Riposella. Poi naturalmente c'è tutta la borsetteria, ma la cosa importante è che i prezzi a fronte delle firme che avete appena sentito sono straordinari. Si parte da 19 euro per arrivare a 49,59, pensate. Andate a trovare questo showroom, questo negozio a Castelbuono e a Campo Felice di Roccella, perché è straordinario, la qualità è ottima, mettete ai vostri piedi anni di esperienza nel campo della calzatura, ma mettete soprattutto freschezza, comodità e potete naturalmente godere più le vostre passeggiate anche sui campi se volete, ma sul lungomare, nelle città, camminando sicuri con delle scarpe comode che traspirano e lasciano il vostro piede in maniera serena, fresca e tranquilla, e vi consente anche di essere sereni e tranquilli voi, perché i piedi sono fondamentali quando si cammina per la salute e il benessere dell'intero corpo. Quindi salutiamo Impronte Calzature, ve lo ricordo, è anche su Facebook, le firme ve le ho appena dette, la carriera, Renato Balestra, Pier Carden, Francesco Milano, Carla Sanz, bambino Asso, Walt Disney, insomma abbiamo veramente di tutto e di più, ma soprattutto tantissimi anni di esperienza nel mondo della calzatura. Volevo anche ringraziare un altro sponsor prima di andare avanti con la trasmissione, Croce Verde, volontario sociosanitario, prestazione medica per manifestazioni sportive. La sede a San Mauro Castelverde, finale di Pollina, Cefalù e Castelbuono invece sono le filiali, dimissioni ospedaliere, disbrigo pratiche e documenti sanitari. Il numero 360-866-082 oppure 333-40-27-332. Perché vi parlo di Croce Verde? Perché in caso che voi facciate delle manifestazioni sportive necessita la presenza di un'ambulanza accessoriata, e Croce Verde ce l'ha, oppure se dovete fare una dimissione ospedaliera di un vostro congiunto, beh, anche in quel caso chiamate questi numeri 360-866-082 e vi risponderanno, verranno in ospedale, caricheranno sulla propria ambulanza e porteranno il vostro congiunto nell'abitazione dove è residente. Poi per il disbrigo pratiche, beh, anche in questo sono specialisti. Mi fermo un attimo prima di dare la linea alla telefonata. Sì, bisogna andare avanti con il programma. Dicevamo di Papa Francesco, in attesa che il presidente Calanna venga raggiunto telefonicamente, si trova naturalmente in giro perché avendo assunto da poco la carica di presidente dell'ESA è chiaro che ha molte situazioni da controllare, per cui raggiungerlo telefonicamente non è semplice, però la regia ci sta provando, di questo la ringraziamo, e andiamo avanti con quello che stavamo dicendo prima. Papa Francesco, insomma, sta incarnando il cristianesimo sul vero senso della parola. Intanto, essendo un gesuita, insomma, la dice lunga su questa storia. I gesuiti sono i più preparati nel campo e i più pedanti nel campo della cristianità, e poi il nome che ha scelto Francesco, insomma, la dice lunga sul rapporto di semplicità, di amore nei confronti del mondo intero ma soprattutto nei confronti di Cristo, insomma, l'incarnazione perfetta. Poi nel giornale, sfogliando, troviamo la condanna confermata di Berlusconi alla Corte d'Appello di Milano, 4 anni di pena e 5 di interdizione dei pubblici uffici, Ghedini, che è l'avvocato anche deputato, giudici prevenuti, la Santa Chiesa, sentenza vergognosa, Di Pietro, già è colpa dei giudici, insomma Di Pietro dice sempre la sua, nonostante ormai non faccia più parte della politica, quella grande, insomma quella a tutto tondo. C'è stato un altro grave incidente sul porto di Genova, schianto in porto 7 morti e 2 dispersi, uno è siciliano, nave cargo fa crollare la torre dei piloti, tra le vittime pure un siciliano, indagano naturalmente le forze dell'ordine insieme alla magistratura. E allora c'è una notizia, c'è una notizia su un DJ milazzese di 31 anni, DJ per hobby, è stato schiacciato dai detriti. Il suo nome è tra quello dei morti. Il militare milazzese Giuseppe Tusa, 31 anni, sottocapo in servizio permanente della Guardia Costiera, era in servizio all'operativo VTS del porto Ligure, ubicato nella torre di controllo. Non si aveva notizie di Tusa sin dai primi minuti dopo il crollo della torre. A quanto pare, al momento dell'incidente, il militare stava lasciando la torre. Insomma, diversi 7 morti, insomma, ci sono anche i nostri corregionali, e la cosa ci lascia un pochino perplessi. Parliamo adesso di il radar di Niscemi, scontri con la polizia, 5 feriti arrestati, 2 attivisti, sapete che si parla di quel radar che dovrebbe garantire la sicurezza ai nostri alleati americani. Il comitato Mamma Neomus si difende, condanniamo ogni forma di violenza, non siamo estremisti o solo anarchici. Tafferugli e scontri tra attivisti e polizia ieri mattina davanti alla base della Marina Militare statunitense di contrada Ulmo, dove sta sorgendo il contestatissimo mega radar chiamato MUS. Il bilancio è pesante, 5 feriti, 2 manifestanti e 3 agenti, anche se in maniera leggera. I 2 giovani sono stati anche tratti in arresto. Tutto è iniziato attorno alle 8, quando dalla base americana è uscito un convoglio con a bordo dei Marines che avevano terminato il turno. I manifestanti del presidio permanente Nomus erano particolarmente contrariati perché il cambio della guardia era avvenuto alle prime luci dell'alba, eludendo la loro sorveglianza. Perciò hanno atteso il convoglio in uscita, bloccando con una catena legata a 2 alberi posti ai margini della strada. Mamme Nomus che sostengono che ostentavano false gravidanze con cuscini sistemati sotto gli abiti hanno ballato e recitato il rosario in omaggio della Madonna del Bosco. Poi sono intervenute le forze di polizia, insomma lì è successo di tutto e di più. Assenteismo condannato ex capo dei vigili, questo è successo a Messina. A Palermo Zichichi intitola borsa di studio ad Andreotti. Insomma, ci sono delle sfumature straordinarie. Il consiglio di presidenza del WFS, World Federation of Scientists, per onorare la memoria del senatore Giulio Andreotti, ha istituito una borsa di studio che ogni anno sarà attribuita a un giovane scienziato del 115 edizione del WFS. La Borsa di Studio permetterà al vincitore di partecipare ai seminari di Erice sulle emergenze planetarie. In via eccezionale quest'anno la Borsa di Studio sarà attribuita a uno scienziato del CICAST, Chinese Center for Advanced and Science and Technology di Pechino. E allora, formazione, ecco, questa è un'altra nota dolente. L'altro giorno avevo dato notizia che gli esodati e i licenziati della formazione avevano inviato al presidente Crocetta, visto che lui aveva sostenuto che avrebbe pagato lui questi lavoratori, hanno mandato insomma delle cartoline con il proprio IBAM, che insomma, è il numero di conto di banca dove versare eventualmente i soldi. Sciopero degli enti, protesta a Palermo, domani sciopero degli operatori della formazione che si incontreranno alle 9.30 a piazza Alcide De Gasperi a Palermo, organizzato due sit-in. Intanto la protesta di un dipendente dell'ARAM, Fabio Salerno: il nostro ente di formazione arme rischia il fallimento a causa di ritardi ingiustificati da parte della regione che delle emissioni di mandati per prestazioni già svolte. Abbiamo occupato pacificamente l'assessorato alla formazione per far emergere la nostra situazione drammatica che rischia di sfociare a breve nel licenziamento. Siamo stanchi, prosegue la nota, di essere ignorati dall'assessore del dirigente Corsello rispetto al nostro diritto di percepire gli stipendi arretrati e di rimanere al lavoro attesi i nostri contratti a tempo indeterminato. Beh, sapete che 350 di un altro centro di formazione, parliamo del CEFOP, sono stati licenziati in tronco, si brancola nel buio, non si capisce Crocetta cosa voglia fare di tutta questa gente. Da un lato dice no, vanno salvati, vanno riqualificati, vanno ricollocati, dall'altro però insomma stiamo giocando con la pelle delle persone e questo non sta bene né alla politica né tantomeno, men che meno, a chi dovrebbe, usiamo il condizionale, dovrebbe lavorare e portare a casa insomma un pezzo di pane. Questo è. Allora, in attesa sempre del collegamento con il dottor Calanna, io direi di ascoltarci un brano musicale, così ci rilassiamo un pochino e al rientro, se non dovesse ancora pervenire il dottor Calanna, perché ripeto è appena stato insediato come presidente dell'ESA, sentiremo casomai il dottor Bartolo San Martino, nell'augurio che sia disponibile anche lui. Direi di mettere un pochino di musica, un brano musicale, oppure mandiamo un po' di pubblicità, così stacchiamo un attimo e poi riprendiamo. Allora, sanità, la formazione Maugeri sbarca all'ospedale di Ribera, la mafia e l'assenza della Sicilia, bufera San Giusto Girano Ferrara. Ieri ho scritto un trafiletto anche su Facebook per rispondere a questo signore, il quale ha scatenato il putiferio, e la cosa che mi lascia perplesso è che il caro amico Mentana, che il conduttore della trasmissione sulla SET, su questa ennesima televisione privata, insomma, non è intervenuto per difendere il meridione in generale, ma in particolare la Sicilia. Polemica sulle affermazioni TV del giornalista Giuliano Ferrara, per il quale la mafia è l'essenza della Sicilia. Ieri è intervenuto il presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone. Giuliano Ferrara ha perso una buona occasione per tacere dalla sua demagogia sulla Sicilia e siciliani. Non se ne avvertiva il bisogno. A Ferrara vorrei ricordare che invece le vere essenze della Sicilia sono l'accoglienza e la contaminazione fra le diverse culture, e per questo mi sorprendo che da un giornalista colto e raffinato come lui sia arrivato un inaccettabile stereotipo. E per il deputato regionale del Megafono, Antonio Malafarina, le parole di Ferrara dimostrano pregiudizio e incapacità di analisi. Da anni i siciliani, prime vittime della mafia, si battono contro quelli che hanno devastato vita e futuro e stanno riscattando col sangue e i sacrifici di tanti di essi da un gioco infame, a volte condiviso e imposto da interessi che hanno sede altrove, vedi Roma, vedi Parlamento Nazionale. Stesse proteste anche dall'eurodeputato Soni Alfano, dichiarazioni ignobili. Io non aggiungo altro a queste parole, sono più eloquenti di quanto io possa dire. Certo, mi verrebbe voglia di essere molto pesante e offensivo nei confronti di un giornalista che io stimavo come persona equilibrata, come persona pacata, però a questo punto devo associarmi a quello che i nostri rappresentanti politici hanno detto. Mi dispiace per Ferrara, ha perso una buona occasione, non per tacere, ma per essere ancora una volta una persona moderata. Dunque, è finalmente giunto il momento di avere ospite in trasmissione, anche se per via telefono e per pochi minuti, perché so che è molto impegnato, il dottor Francesco Calanna, neopresidente dell'ESA. Intanto auguri, presidente, e ben ritrovato. Grazie, grazie a lei. Allora, Presidente, vogliamo spiegare a chi non sa in effetti cosa sia l'ente di sviluppo agricolo e a cosa serve l'ente di sviluppo agricolo, di cosa si occupa? L'ente è un istituto storico, braccio operativo dell'assessorato regionale all'agricoltura. Oggi conserva competenze in ordine alla viabilità rurale, alla elettrificazione rurale, alla meccanizzazione del settore, ha competenze sull'assistenza tecnica alle aziende agricole. Un tempo chiaramente si occupava anche di dighe, di acque, ma queste competenze oggi sono passate in parte all'assessorato all'energia e in parte alle consorzi di bonifica, e ciononostante è un ente robusto. Presidente, intanto una domanda, visto che lei citava le aziende, oggi si parla di aziende che chiudono, di aziende che falliscono, di imprenditori che, beh, ahimè, si tolgono la vita perché si sono visti depauperare quello che era il bene ultimo della loro vita, lo scopo stesso della vita, cioè il lavoro. La situazione, lei è insediato da poco tempo, per cui non so se ha già il polso in mano della situazione per quanto attiene l'agricoltura in Sicilia, ma so che ci sono delle aziende che sono fiore all'occhiello della nostra regione in campo dell'agricoltura e zootecnia in generale. Lei ha il sentore che si possa accentuare ancora di più questo stato di crisi, o invece con il tempo e con un po' di buon senso si possono dare ancora degli aiuti, non economici, perché in questo momento non si parla di quello, ma quantomeno dei suggerimenti a queste aziende per non rischiare il tracollo? Un elemento caratterizzante per le piccole e medie imprese e anche quindi quelle del settore agricolo oggi è l'accesso al credito. La impossibilità per queste aziende di accedere al credito determina delle strozzature veramente fatali per queste aziende. Allora la prima cosa che tenterò di fare è quella di riattivare il fondo di rotazione dell'ente di sviluppo agricolo, in maniera che possa essere una risposta immediata non soltanto per la conduzione delle aziende, ma anche per l'acquisto delle attrezzature, comunque rispondente a quelle esigenze gestionali dell'azienda agricola, in attesa che si costituisca questo medio credito siciliano, così come annunciato dal Presidente Gocetta, un'operazione di riforma che vede IRTS, IRCAC, TRIAS e anche agricoltura, fondo di rotazione assieme sostanzialmente, è gestito in una logica unitaria. Presidente, lei sostanzialmente giovane, diciamolo, perché io la conosco personalmente, insomma è giovane ed è anche una persona che si è sempre occupato, ecco, è in onda in questo momento anche su streaming, si può essere anche visto, gli ho messo una bella foto, una bella cravatta rossa, Presidente, l'abbiamo ben imbacuccata. Dicevo questo, essendo un giovane che ha fatto un iter politico, ma ha fatto anche delle altre cose abbastanza interessanti, quindi ha il polso di tutte le situazioni per quanto attiene il lavoro. C'è una tematica che è quella che l'agricoltura, molti dei nostri territori sono stati abbandonati a se stessi, l'agricoltura ha bisogno secondo me di riprendere possesso, cioè le braccia hanno bisogno di riprendere possesso della terra, perché da lì parte tutto, ma ci sono delle difficoltà. I giovani soprattutto, ci sono dei progetti, lei pensa di porre in essere dei progetti per quanto attiene i giovani che vorrebbero, usiamo il condizionale sempre d'obbligo, fare delle nuove aziende, creare delle nuove aziende zootecniche o anche di sviluppare sui territori delle filiere? Ma guardi, l'agricoltura nostra ha una propria dinamicità che è sorprendente, perché a fronte di queste difficoltà oggi ci sono imprese che si confrontano con la qualità, perché il segmento che ci è stato consegnato è appunto quello e che ci siamo conquistati, è quello della qualità delle nostre produzioni agroalimentare e zootecniche. Dicevo, oggi le imprese sono impegnate su questo fronte con grande difficoltà e vedremo di venirgli incontro anche con questa considerazione che facevamo prima con l'accesso al credito, ma È chiaro che ci sono strumenti sul fronte della programmazione, il nostro PSR sostanzialmente, che rispondente alle esigenze di impiantare nuove imprese, di migliorare le esistenti, ed è chiaro che l'elemento della informazione deve essere un elemento garantito. Noi dobbiamo veicolare la notizia, informare e assistere le nostre aziende, aiutarle in questo processo di innovazione e di modernizzazione che stanno intraprendendo. Presidente, io non la tedio ulteriormente, la terrei qui per ora a parlare, perché poi oltretutto è anche simpatica, anche una bella voce radiofonica, quindi complimenti, Presidente. Allora, prima di lasciarla, c'è un qualcosa che lei ha pensato di fare non appena è stato nominato? Il primo atto che vorrebbe fare per cambiare qualcosa, c'è da cambiare qualcosa nell'ESA in senso positivo, voglio dire, o maggiore mobilità o maggiore visibilità, cosa vuole fare come primo atto per lasciare un imprimatur della sua presidenza, Presidente Calanna? Ma suggerirò al Presidente della Regione e all'Assessore all'Agricoltura un percorso di riforma dell'ente di sviluppo agricolo. D'altra parte già lo stesso assessore Dario Cartabellotta lo ha annunciato, cioè dire un ente riformato che ampli la propria sfera di influenza soprattutto nel sviluppo rurale. La ruralità deve essere un elemento costante nell'azione delle politiche dell'ente di sviluppo agricolo. Ed è chiaro che puntare sulla ruralità significherebbe puntare anche sulla rinascita dell'economia siciliana. Vede, noi ci siamo confrontati in questi anni con delle difficoltà finanziarie, non soltanto noi siciliani, il nostro paese, forse il mondo sostanzialmente, con delle difficoltà finanziarie. E la madre di tutti gli errori è stata quella che abbiamo dimenticato che per essere ricchi bisogna produrre ricchezza vera, non cassa. Ecco, la ruralità, il mondo agricolo in particolare, garantisce questo, la produzione di ricchezza reale, e dobbiamo ritornare a produrre ricchezza reale. Dottor Calanna, io la ringrazio per aver accettato l'invito, è stato molto esaustivo, vedo che le idee ce le ha abbastanza chiare, ma non avevo dubbi. Volevo correggere due sue inesattezze. Prego. Sono il Presidente dell'Ente di Sviluppo Agricolo, ma sono il Commissario Straordinario, quindi inesattezza. Secondo inesattezza, non sono proprio giovane, ma comunque sono... mi ritengo giovane e intelligente, visto che 50 anni non li devo più compiere. Si ritiene un vecchio, non credo proprio, 50 anni. No, 50 anni. Dico, io non sapevo che c'era un commissariamento, pensavo che fosse stato inserito un nuovo presidente, per cui voglio dire, l'errore ci sta e lo fanno i colleghi insigni di Roma, di Rai, la presidenza presuppone l'insediamento di un consiglio di amministrazione, dell'ESA, cosa che il in atto non c'è. L'assessore Dario Cartabellotta hanno in animo di fare. E comunque l'ora che si insedi il consiglio di amministrazione e il presidente, io sono stato delegato come commissario straordinario alla gestione dell'ente. Perfetto, signor commissario, la chiamo così, signor commissario, intanto la ringrazio perché ha accettato di intervenire nella mia trasmissione, le auguro un proficuo lavoro, un buon lavoro in tempi chiaramente non facili, ma so il suo piglio qual è, per cui dico ho piena fiducia in quello che lei porrà in essere per il futuro, in concerto con l'assessorato naturalmente, con il presidente Crocetta. La ringrazio per le parole cortesi e saluto i suoi ascoltatori. Io ringrazio lei, le auguro buon lavoro. Grazie, arrivederci. A risentirla. Allora era il commissario, ci correggiamo, il commissario dell'ESA, il dottor Calanna, il quale avete sentito, insomma, si muoverà in lungo e largo per dare manforte alle aziende già esistenti che sono in situazioni veramente critiche con l'accesso al credito di cui tanto si parla, e quindi c'è bisogno di liquidità, e per i giovani, insomma, che vorranno fare un futuro di lavoro, di creare nuove aziende, anche questo ci sarà messo nel calderone. Io darei la linea alla regia e poi al ritorno chiameremo il dottor Bartolo San Martino per questa benedetta tabella H. Linea alla regia. fosse messo in ascolto in questo momento, sto ascoltando Carta e Penna, programma ideato e condotto in studio da Filippo Glorioso, e va in onda ogni giovedì a mezzogiorno circa, fino alle 13 circa. Potete seguirci su Facebook, potete chiamare lo 0921 92 32 92 e poi anche volete, se volete seguirci e vederci, perché no, oltre che sui 101.4 potete farlo anche su streaming su www.crmpiredio.it. E allora, ci sono stati un sacco di arresti, traffico di sequestri, pub e negozi sotto la legge della mafia, sgominata tutta la nomenclatura mafiosa di Bagheria che minacciava da tempo il territorio, sviluppi ulteriori, insomma ce ne sono pagine piene di giornali. E allora torniamo all'argomento e all'altro ospite, in attesa poi svilupperemo meglio questo argomento. Intanto si è letto sui giornali in questi giorni di una bufera che si è verificata a proposito della tabella H per quanto attiene le onlus che percepiscono a pioggia contributi da parte della regione. C'è stato il presidente di Fiumara d'Arte, il quale ha rinunciato a ben 80.000 euro di finanziamento, da lì si è scatenato il finimondo. Dovremmo avere in linea il dottor Bartolo San Martino, presidente dell'Accademia della Politica. Bartolo, buongiorno. Buongiorno Filippo, buongiorno ai vostri ascoltatori, buongiorno. Allora, spieghiamo ai radioascoltatori la motivazione per la quale ho chiamato proprio te, perché tu sei scritto sui giornali, sì, che essendo da anni presidente di questa benemerita associazione, peraltro riconosciuta a livello nazionale dalle più, sì, alte cariche dello Stato, dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, insomma tanti riconoscimenti per la benemerita opera di lavoro che tu fai dentro il tuo ente, hai detto a lettere cubitali: io non ho mai percepito un soldo. Spieghiamo intanto, andiamo un po' a ritroso, spieghiamo intanto cos'è questa benedetta tabella H ai non addetti ai lavori. La tabella H è un capitolo, diciamo, di spesa, ma che poi tutto sommato, attraverso una serie di norme che in questi anni sono succedute, poi è stata suddivisa su più capitoli, che riunisce i fondi, i contributi, i finanziamenti che vengono dati ad un elenco di associazioni siciliane, sì, che senza alcun tipo di criterio, senza alcun tipo di requisiti e via di seguito, se non la protezione clientelare di questo o quell'altro deputato, vengono distribuiti. Negli anni scorsi la somma che veniva distribuita a 300-350 enti circa era di diverse decine di milioni. In questa ultima finanziaria, per la quale lo stesso presidente della regione Crocetta aveva promesso di azzerare questa tabella H, di provvedere a distribuire questi fondi attraverso un bando pubblico, invece questa somma è scesa a 25 milioni di euro, che sono sempre 50 miliardi delle vecchie lire, che vengono distribuiti ad associazioni a volte meritevoli, perché tra queste c'è uno sparuto, un ridottissimo numero di associazioni meritevoli, ma poi in gran parte vengono dati ad associazioni che a volte non hanno né una sede, non hanno un sito internet, non hanno mai realizzato nulla sul territorio, non hanno mai concretamente partecipato alla elevazione civile e culturale del nostro Sicilia, paese, sì, attraverso iniziative serie, attraverso iniziative che meritano di essere sostenute. Allora, questo è uno scandalo che noi denunciamo da diversi anni. E proprio per il fatto di essere stati concretamente, costantemente in prima linea nel denunciare questo gravissimo vulnus, questa gravissima ferita anche al sistema Sicilia nel suo complesso e soprattutto alla sua identità culturale, questa volta, proprio in ragione anche della visibilità che ha avuto Antonio Presti, l'amico Antonio Presti di Fiumara, sì, d'Arte, nel donare questa iniziativa, abbiamo voluto aderire a questo appello e rilanciarlo, e continueremo a lavorarci sopra, anche se, devo dire, è di pochi istanti fa la notizia che il commissario dello Stato ha bocciato appunto la tabella H. E allora, quindi, se ho ben capito, in questo momento tutte le associazioni, quelle benemerite, quelle meno benemerite, non usufruiranno di nessun finanziamento fino a quando le cose non si ricomporranno. Certo, chiaro, io credo che da questo punto di vista Crocetta adesso sarà costretto, torto collo, a bandire questa tabella H e a immaginare un percorso normativo di trasparenza che attraverso delle procedure accessibili a tutti dia su requisiti precisi questi fondi, distribuisca questi fondi a chi appunto possiede i titoli per poterli ricevere, e non soltanto perché c'è quel deputato, c'è il gruppo di forza parlamentare che tutela gli amici e porta 150, 200, 250 mila euro un'associazione che fa combat, tiro sportivo o con tutto tagre. Il rispetto per lo sport, attenzione, certamente con tutto rispetto, però ecco, deve essere qualcosa di più congruo, voglio dire, che sia sotto gli occhi di tutti, ma non la singola associazione. Capisci bene, Filippo, che il problema è, no, non può essere mirato alla singola associazione. Se tu hai lo sport a cuore, innanzitutto ci sono dei fondi destinati per questo, ma stabilisci dei requisiti che valgono per tutte le associazioni, esatto, sportive, esatto, le società sportive, gli enti di promozione e via di seguito, cioè fai un provvedimento erga omnes, cioè che mantenga la generalità della norma, cioè che si rivolga a tutti. E questo è un problema anche... Per parafrasare il latino maccheronico, no? La butto lì perché ogni tanto la battuta per sbattezzare ci vuole. E non ad muzzum, certo. Non ad muzzum, ecco. Bene, proprio così, il latino maccheronico, veramente non ad muzzum, che poi non ad muzzum, perché dietro la tabella H c'è una strategia precisa che come dire... alla fine poi di un lungo percorso si risolve in quei finanziamenti a quelle singole realtà associative, culturali, ma dietro ci sta una trattativa tra parlamentari, tra gruppi parlamentari e il Presidente della Regione e l'assessore al bilancio e all'economia, al tesoro, quindi Bartolo, una trattativa, sì, prego. Scusami, ti interrompo, dovresti avvicinare di più il ricevitore alla bocca, perché se no ti sentiamo... Sì. Ecco, adesso sì, ci siamo. Dicevo, c'è tutta una trattativa che precede poi la definizione della tabella H, che è un vero e proprio mercato delle vacche, in cui l'Accademia, per il conto nostro, non è mai entrata, perché appunto per essere dentro la tabella H si deve far parte di un gioco certamente non trasparente, in cui i meriti e i titoli non valgono assolutamente nulla. Ti fermo un attimo perché ho altre due domande da farti. La prima, come politico, anche se un po' a latere in questo momento, ma sei stato anche deputato regionale, se non erro, non vorrei dire una inesattezza, e ti sei occupato di politica. Dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio di fine politico, no? Di fine osservatore, durante la tua campagna elettorale, le ultime regionali, io ti ho seguito in alcuni casi e hai detto delle cose sacrosante, cioè la preparazione, non ci si inventa a diventare politici, non si nasce politico, bisogna studiare, bisogna applicarsi, bisogna stare in mezzo alla gente, insomma hai dato dei punti cardini dai quali nessuno può essere scevro. Detto questo, dell'attuale governo, di questa formazione che per costrizioni varie, perché la legge elettorale, cioè porcelli, eccetera eccetera, non stiamo qui a disquisire perché sennò tediamo la gente. Dal tuo punto di vista di osservatore di preparatore, tra l'altro, dei futuri politici, come la vedi questa storia di questo governo? Secondo te come andrà? Sinceramente mi chiedi di fare, come dire, una previsione estremamente difficile. Certo è che registro una serie di marce indietro rispetto ai proclami fatti in campagna elettorale sia dal Presidente della Regione, ma anche delle forze politiche che lo sostengono, che a me sinceramente non mi garba tanto questa situazione. Penso non solo alla tabella H, ma all'ufficio della regione siciliana a Bruxelles, penso a come è stata condotta la politica del personale e delle risorse umane in seno alla regione siciliana, penso alla gestione del bilancio e alla incapacità di affrontare le vere emergenze del territorio siciliano, a partire dai debiti nei confronti della pubblica amministrazione, al campo della formazione professionale. Ci sono centinaia di associazioni che hanno lavorato anche in progetti di utilità sociale che aspettano che la regione liquidi finanziamenti che avrebbe dovuto liquidare già da 2-3 anni, così anche le imprese che soffrono i ritardi di questa amministrazione regionale, e questi continuano a giocare, a ballare mentre tutto intorno crolla. Bartolo, ecco, io sono convinto, perdone Filippo, proprio 30 secondi. Prego, continua. Io sono convinto e ti ringrazio per quello che hai detto in premessa rispetto alla domanda, che senza una formazione adeguata non ci si improvvisa classe dirigente, e questo è sotto gli occhi di tutti. Basta pensare a quello che sta accadendo all'interno del Movimento 5 Stelle, basta pensare a quello che sta accadendo anche per le cronache giudiziarie che coinvolgono candidati che erano anche inseriti nella mia lista, nella lista nella quale mi sono candidato, e che sono adesso accusati e indagati per voto di scambio politico mafioso. Ecco, basta pensare ad una classe dirigente che purtroppo non è l'espressione popolare. Non è espressione degli interessi collettivi della gente, è espressione popolare perché prende il voto della gente. Tu mi insegni, Bartolo. Ma non degli interessi collettivi, cioè degli interessi di tutti i siciliani. Non c'è dubbio, però poi questo consente a una persona che io stimavo molto come giornalista, sebbene non ho il piacere di conoscerlo personalmente, ma l'ho sempre seguito come persona moderatissima. Ieri sera, non so se tu hai letto su Facebook, insomma, è uscito fuori una storia con Giuliano Ferrara, che sinceramente io ho dato una risposta molto pesante all'amico Ferrara, mi dispiace, però lui non può, questa è poi la conseguenza classica di tirare le somme su che cos'è la sicilianità in odor di mafia, questo e quell'altro, e questo dobbiamo dire grazie ai politici, che poi cosa fanno, come tu dicevi prima, sono stati inquisiti, voto di scambio, e chi più ne ha più ne metta, quindi bisogna un attimo mettere mano a queste cose, perché sennò qui non usciamo più. Guarda, la riflessione di Ferrara è dolorosissima, ma al di là del fatto del dolore che provoca un giudizio così duro, devo dire la verità che è ancora più grave quando viene espresso da non siciliani. A memoria mi va a Sciascia quando diceva che questa era una terra irredimibile. Ora, certamente ognuno di noi si deve sentire richiamato delle parole di Ferrara, più che offeso, anche ad una riflessione civile, una riflessione civica abbastanza importante, perché qua se ci troviamo in queste condizioni di sottosviluppo e degrado, certamente qualcuno la responsabilità ce l'ha e non si può sempre darla agli altri, perché nel dare la responsabilità agli altri siamo sempre tutti quanti bravi, perché non ci vuole nulla ad assolvere se stessi dando la responsabilità agli altri. Certo è che qui bisogna ripartire, ecco, da persone capaci, non contaminate da esperienze fallimentari, sia sotto il profilo politico, sia sotto il profilo giuridico e culturale. Ripartire dai giovani, ma dai giovani che hanno già espresso capacità di fare, di sapere. Sono il nostro futuro, Bartolo. Ripartire da questo e sbaraccare questi personaggi che non hanno né arte né parte, che si sono distinti principalmente per aver rappresentato interessi di malaffare, loschi, interessi che nulla hanno a che fare, ripeto, con gli interessi collettivi del popolo siciliano, perché l'interesse del popolo siciliano è che ci sia più lavoro, che ci sia più lavoro produttivo, che ci sia che ci siano dei servizi efficienti e trasparenti nel campo della sanità, nel campo dell'attività produttiva, in campo appunto economico. L'interesse della gente è quello di vivere in una terra più pulita, più trasparente, non certo quella di doversi sentire offesi da Giuliano Ferrara, che ci ricorda che l'essenza della Sicilia è la sua mafiosità. Dobbiamo essere in parole che sono inaccettabili, mi consentirai, inaccettabili, però che al contempo debbono impegnare ciascuno di noi nel fare qualcosa di più rispetto a quello che non si fa già. Bartolo, ti stoppo un attimo, io vorrei, sì. Ho suggerito a qualche nostro amico senatore o deputato nazionale, rischio di diventare retorica la mia, però io sono convinto di questo: noi abbiamo la storia della democrazia scritta come deve funzionare. Tu mi insegni che un certo Pericle ha scritto una bellissima lettera agli ateniesi sulla politica, cos'è la democrazia. E allora, se questa gente non studia, non legge, non si prepara, e non sarà mai in grado di gestire la res pubblica, perché allora non gliene frega nulla della res pubblica. Questo è verissimo. Io la settimana scorsa, pur avendo poco tempo a disposizione quel giorno per guardare la televisione, facendo zapping, ho visto di pomeriggio su un canale Mediaset Extra un'intervista che le Iene hanno fatto, evidentemente una trasmissione serale andata in onda di sera, ai politici, alcuni veramente personalità pure abbastanza note, sulle funzioni del capo dello Stato. e il 99% di questi deputati balbettava domande di una semplicità. E che figura ci facciamo in Europa? È enorme. Questo dà la dimensione dello scadimento della classe dirigente e di fatto, se uno ci riflette bene, il fenomeno 5 Stelle, al quale io non addosso alcuna responsabilità dei disastri in cui viviamo, è certamente, dà certamente la dimensione